GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Tra le polemiche per gli incidenti di Sofia e le preoccupazioni per qualche infortunato di troppo, l'Italia sulla strada verso Sudafrica 2010 archivia lo 0-0 con la Bulgaria e prepara la sfida di mercoledì a Lecce contro il Montenegro. Preoccupano l'attaccante Giuseppe Rossi e il romanista De Rossi, come spiega il medico azzurro Enrico Castellacci. De Rossi ha avuto un trauma contusivo alla coscia destra, con un pochettino di ematoma ma senza lesione delle fibre muscolari, per cui abbiamo pensato di tenerlo qui e provare nei prossimi giorni per vedere se può essere o meno disponibile per la partita di mercoledì. Infortuni permettendo, Lippi, che ha convocato l'Udinese Quagliarella al posto dello squalificato Toni, pensa a un turnover molto limitato. No, non penso di cambiare tanto, penso di cambiare qualcosa, però voglio prima aspettare le risultanze di questi acciacchi, che io mi auguro che siano tutti recuperabili, ma non penso di cambiare tantissimo. Caos e spettacolo nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Al Fuji vince Fernando Alonso davanti a Kubica e Raikkonen. Massa ostacolato al via da Hamilton, poi penalizzato, e prima a sua volta penalizzato per un contatto con Kovalainen. Poi, ottavo al traguardo, il ferrarista diventa settimo per la penalità inflitta al francese Bourdais, che lo aveva tamponato. Alla fine Massa porta da 7 a 5 punti il distacco in classifica proprio da Hamilton, solo dodicesimo. È stata una gara molto difficile, complicata, un casino in certe parti, però di tutto quello che è successo fare i punti è stato importante. A Bourdais non c'è tanto da parlare, perché io stavo facendo la curva, lui mi ha buttato fuori, mi ha girato. E Alonso ora potrebbe diventare prezioso alleato di Massa nella volata mondiale. È vero che io, dopo soprattutto quello che ho vissuto l'anno scorso in McLaren, voglio che la Ferrari vinca e si possa aiutare Massa in quest'anno, farò il massimo. Torniamo al calcio. Nell'ottava di Serie B l'Empoli vince a Salerno per 1-0 e vola momentaneamente in testa alla classifica. Triestina e Grosseto si confermano nei quartieri alti. Gli alabardati hanno sconfitto il Cittadella 2-1, mentre i toscani battono in trasferta l'Ascoli 2-0. Il Livorno travolge 5-2 il Frosinone, 2-2 tra Treviso e Parma. Stasera Albino Leffe Pisa. Per il basket le due bolognesi partono con una vittoria nella prima di A1. La Virtus ha sconfitto Biella, mentre la Fortitudo ha espugnato Udine. Roma ha battuto dopo un supplementare Caserta. Vittoria anche per Siena, Treviso, Teramo, Rieti e Milano, che vince a Pesaro e ora punta a far bene anche in Eurolega, come spiega il tecnico Piero Bucchi, ospite di A Tempo di Sport. Abbiamo un gruppo che ha voglia, che crede in quello che stiamo facendo. Mi auguro che effettivamente possa essere un'Eurolega che ci porti qualche sorriso. L'obiettivo è andare nel top 16, non è facile, ma ovviamente ci vogliamo provare. Chiudiamo con la pallavolo. Nella 1 maschile vincono Forlì, Trento, Montichiari, Modena e Macerata, ora capolista. Tra le donne successi per Pesaro e Bergamo, Perugia cade al tie break contro Santeramo. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Un saluto da Dario Ricci.